Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo, eccoci caro Oscar, 8:20. Eccoci qua in questo 20 di dicembre. Qui veramente ogni tanto bisogna riscoprire i santi, visto quello, i matti, quello che fanno al mondo, tipo a Berlino o tipo ad Ankara. Comunque San Liberato oggi, console e martire al 269. Sant'Ursicino, a me sta molto simpatico Sant'Ursicino, era un monaco irlandese e poi compagno di San Colombano e si stabilisce nel Giura in Francia. E poi San Domenico di Silos. San Domenico di Silos è un santo spagnolo della Navarra e poi in Siviglia, che in Spagna è molto famoso, è addirittura associato al Cid Campeador come grande santo, ovviamente della pre-reconquista, perché si dava da fare molto per riscattare i cristiani che erano schiavi dei mori. Questo ci ricorda e ci riporta al fatto che in realtà, come vedi, la gente continua a sparare per il fondamentalismo, ma noi ci abbiamo alle spalle secoli e secoli di bei, purtroppo, di orrendi scontri. Detto questo, qualche anniversario di oggi. Per i genitori, i bimbi in ascolto, pensate che nel 1812 uscivano oggi le fiabe dei fratelli Grimm, cioè alcune delle più tenebrose e violente saghe dell'alto medioevo tedesco, sotto le quali continuano a riverberare vicende di sangue e di sesso, perché in realtà Cenerentola, Gatto con gli stivali, questa roba qui è una cosa abbastanza, se uno va a vedere, abbastanza truce. Ma comunque, detto tutto questo, nel 2006 oggi moriva Pier Giorgio Welby, è il primo caso di eutanasia attiva nel nostro paese, se ne parlò molto. Oggi infatti sul manifesto Marco Cappato, Marco Cappato scrive un suo ricordo. Secondo me è stata una persona comunque molto coraggiosa, farà del suo caso una cosa di questo genere. Ricordo solo che aveva una distrofia muscolare molto grave, era lucido fino alla fine e volle staccare le macchine rispetto all'accanimento terapeutico. Auguri tra gli altri a Gioia Cinquetti, l'attrice Chiara Francini, che è diventata un idolo di molti per via del suo passaggio sulla Domenica di Pippo Baudo, e al vice direttore del Messaggero Osvaldo De Paolini. Ma questo è per fatto personale, perché ci conosciamo di quegli anni. Un amico. Allora, qui caro Oscar, dovremo destreggiarci tra quello che succede a Berlino, dove la polizia di Berlino ha detto che c'è stato un attentato terroristico, molto presumibilmente dobbiamo definirlo così, tra l'altro con la modalità, no, l'uso dei camion, che ricorda purtroppo Nizza. Oimè. E poi dovremmo destreggiarci magari gli ascoltatori su quello che ha detto Poletti. Ma l'hai sentito il ministro Poletti? Eh sì, che dice che è meglio fuori dai piedi perché non votano PD, hai capito? Questo, no, questo non l'ha detto. No, ma questo non l'ha detto. È questo però. Ha detto che molti giovani, alcuni giovani, se sono all'estero, se sono parte di quella cosiddetta fuga meglio dei cervelli, meglio che restino dov'è? Ha detto ne conosco alcuni, non so, magari ha un nipote, io ho detto magari ha un nipote fannullone e contento. Ne conosco alcuni che se stanno fuori dai piedi è meglio dall'Italia. Ma ripeto, però voglio dire, sai che noi, come sai, ci ascolta molti dall'estero, no? Come evidente, io sono colpito perché Poletti, in realtà, si può essere d'accordo o meno, la sua parabola, le coppe, cioè, però è una persona equilibrata. Ma meno, sì. Questo è così, è sembrata, no, ma lui, no? Ha fatto il ragionamento a dire: non è che tutti quelli che sono andati via sono bravi e qua ci sono i pistola, sì, sono rimasti i pistola. Se è una persona equilibrata come Poletti, nel giro di 5 giorni. Per due volte perde l'equilibrio, perché ti ricordo che prima, a proposito del referendum, la stizza per la sconfitta del referendum gli ha fatto dire: beh, tanto noi il referendum sul Jobs Act della CGIL non lo facciamo, andiamo a votare prima, mica si vota per il referendum. E poi rifà il numero sui giovani, che come sai a maggioranza sì, che poi è quella classica cosa segno, che ti ricordi, Ciusi della Fornero, brutto segno, le persone equilibrate che per la tensione perdono il controllo dei nervi, dà l'idea che c'è qualcosa che continua a non funzionare. Comunque, se volete chiamarci 800 24 0024, ma dobbiamo partire da quello che è successo a Berlino, per sì. Questo noi vogliamo salutare Udo Gumpel, che è giornalista tedesco e corrispondente dall'Italia per NTV e RTL. Buongiorno Gumpel, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, intanto i giornali, per esempio oggi Guido Limpio sul Corriere della Sera dice che in Germania i segnali d'allarme c'erano, e c'erano anche parecchi, ci sono stati arresti in questi giorni, molti di quelli che erano rientrati dalla Siria. Tutto ciò non è bastato, pare, per contrastare questo attentato, che sembra un attentato terroristico, possiamo dire così, Gumpel? Sì, la matrice parla a favore di un attentato terroristico, e anche la polizia di Berlino, come tutte le polizie nostre, sono estremamente cauta a dare informazioni prima che non siano assolutamente verificate. Parla presumibilmente di un attentato. E però vorrei anche sottolineare un fatto importante, che in questi momenti a Berlino suscita molto interesse anche l'attentatore presunto, che è la persona che era a bordo del camion nella cabina, insieme ad una persona morta di nazionalità presumibilmente polacca, perché sapete il camion era polacco, sì. Veniva dall'Italia, era destinato ad un'azienda, mi pare, di Berlino, e doveva consegnare dell'acciaio probabilmente per delle costruzioni di Berlino, e questa persona ha tentato di dilibarsi nella folla, nel caos, è stato seguito da un cittadino berlinese, mi pare per 4-5 chilometri, sempre attaccato al cellulare il nostro concittadino, l'ha seguito fino alla Siegessäule, che è già molto lontano, nella zona del Tiergarten, in questo grande parco oltre la Brandenburger Tor, e che stava per fuggire, stava per sparire, e che però la polizia ha potuto seguire il nostro concittadino. E quindi l'ha arrestato. Cosa si sa di questa persona? Sì. Di che nazionalità? Allora, le notizie ufficiali non ci sono, però negli ambienti giornalistici circola la notizia che si tratta di un cittadino pakistano arrivato circa un anno fa via Passau, che è in Baviera, come profugo, come richiedente asilo politico, che però in quanto pakistano non avrebbe avuto nessuna possibilità di avere l'asilo politico in Germania, che poi forse è stato anche esasperato ancora di più questa persona, è vittima evidentemente di predicatori, adesso mi butto nella speculazione, però sembra che sia questo background, perché in questo momento sono partiti i primi voli charter della Germania verso l'Afghanistan e tra poco anche verso il Pakistan, per riportare le persone che hanno chiesto asilo politico, però diritto, che non hanno ottenuto. Certo che questa modalità, caro Oscar, del dirottamento del camion, perché siamo a questo, no? Pare che l'autista polacco a questo punto sia stato, come dire, costretto, forse ucciso e dirottato. Cioè, nel senso che sono modalità che nella loro semplicità in realtà mettono in crisi tutte le tecniche di previsione di chissà quali raffinate tecniche su chissà quali ipertutelati obiettivi, perché come si capisce stiamo parlando di un mercatino, sia pur a Kufstein, cioè nella parte, diciamo, di Berlino più luccicante. Quanti ce ne sono? Però sai, esatto, basta vedere, non è che nel centro a Milano non girano anche i tir, incredibile a dirsi, però è vero. Io devo dire la verità, che da quando accade la cosa d'inizio mi dice, ma qualcuno starà pensando che forse è il caso di evitare che come i tir al solito girino. Poi si legge sui giornali alzata l'allerta, no? Il giorno dopo casualmente però ci sono gli articoli in cui si dice alzata l'allerta. Sì, ma però... scusate Oscar, queste sono secondo me queste allerte che la polizia tedesca non sarebbe stata attenta, secondo me sono proprio delle sciocchezze del giorno dopo, perché naturalmente ci sono stati allerti, e io parlerei piuttosto rispetto alla polizia tedesca di diversi attentati di persone che sono stati prese in tempo per le segnalazioni, anche in molti casi addirittura di abitanti delle stesse strutture di ospitalità per profughi. Ne abbiamo avuto più di 100 segnalazioni da parte di altri profughi che hanno segnalato comportamenti sospetti di profughi. Quasi nessuna di queste segnalazioni ha portato poi nelle verifiche ad avere una conferma da parte della polizia, ma devo dire che c'è una grande attenzione. Sì. E naturalmente non siamo in grado di controllare 1 milione di persone che sono arrivati E però io vorrei anche, e questo sottolinea peraltro la stampa tedesca di stamattina, noi come giornalisti lo facciamo, e chiaramente anche per dare un senso di misura, abbiamo in Germania e attualmente circa 15 milioni di tedeschi con radici straniere, 15 milioni. Abbiamo circa 4 milioni e mezzo di tedeschi di fede musulmana e abbiamo avuto nell'ultimo anno 1 milione di profughi. È vero, abbiamo avuto un attentato con un morto, quello con lo zainetto, un attentato, sempre un morto di troppo. Abbiamo avuto 3-4 attentati sventati da parte di migranti. Abbiamo avuto in Germania circa 600 tedeschi andati a fare il volontario guerriero di Daesh. Gran parte di questi peraltro sono già morti, queste sono le nostre informazioni, che sono quasi tutti morti in Siria. Abbiamo avuto anche alcune decine di ritornanti, no? E sì, quelli che tornano dalla Siria, sono enorme pericolo, e abbiamo anche, per farle quadro completo, circa 10.000 salafisti, che sono estremisti islamici e che finora tollerati perché fanno finta di fare solo propaganda religiosa, che però molti di quelli che sono andati a fare volontari e terroristi in Siria sono stati agganciati e istruiti da questi salafisti. La verità... ultima informazione che vi voglio ancora dare per fare il quadro completo: queste associazioni salafiste sono quelle associazioni alla luce del sole, sono quelle che sono permesse perché dicono di fare solo fede islamica, che però sono gran parte finanziati dalla Saudi Arabia. La verità, dunque, la verità è che e questo è, di fronte... è un legame estremamente pericoloso. Un quadro così... E naturalmente non c'entra assolutamente nulla in questo istante allo stato attuale con questo presunto. Sì, ma è chiaro, ma la verità è che in questa situazione è, come dire, tra l'altro cercare di fermare questo tipo di attentati è veramente, secondo me, impossibile. Cioè bisogna purtroppo convivere in questo mondo in cui se prendi un camion e ti butti sulla folla non è che puoi controllare, perché appunto c'è la polemica, no. Vedevo non c'erano anche i panetti di cemento che frenano l'eventuale attentato. Ma come fai? Cioè, mettiamo ogni panetto in ogni strada, non c'è più una strada. Cioè, metti le guardie armate davanti ai supermercati, perché sennò poi dopo se la prendono con i supermercati. Cioè, non... La verità è che purtroppo di fronte a questa pazzia dobbiamo con queste poi modalità organizzative puramente solitarie, quindi capisci, non si tratta neanche probabilmente chissà quale complotto, chissà quale preparazione. Senti, un'ultima domanda, Udo, sui giornali stamattina tedeschi: la politica è unita o si spacca dando colpa alla Merkel e alla sua politica, di cose di questo genere? Come funziona la politica tedesca di fronte agli attentati? Allora, di fronte agli attentati anche la Germania si unisce, e chiaramente intorno al governo, questo è chiaro. E naturalmente con l'eccezione dell'AfD, con l'eccezione di questo gruppo nazional populista che si può dire con tante venature ormai neonaziste, perché loro propongono cose del tipo mettiamo tutti i migrati su isole, mettiamoli in lager separati, e li, insomma, loro vogliono evidentemente levare quella parte della Costituzione tedesca che garantisce l'asilo e politico a chi ne ha diritto. Questo, e vogliono anche togliere, non eliminare, ma togliere evidentemente i diritti politici a chiunque entra in Germania, che non sia evidentemente accompagnato di un cane pastore di razza tedesca pura. E dunque, e questo è naturalmente la vergogna della Germania, però questi rappresentano un 10% dei tedeschi, mentre i partiti che rappresentano il 90% dei tedeschi che mantengono questa linea ferma di mantenere lo Stato di diritto, di fare massimi controlli, questa è la linea del giorno. Naturalmente la Merkel ha corretto molto la sua linea prima dell'accoglienza indistinta, che però peraltro era valida per qualche mese, perché era una situazione emergenza. Anche questo bisogna dire, che la Merkel ha aperto le porte per togliere un problema all'Ungheria, perché stazionavano intorno alla stazione di Budapest decine di migliaia di persone, ma si vede che la memoria è molto poca e corta. E in quel momento la Merkel ha detto: cerchiamo di aiutare l'Ungheria, prendiamoci noi, siamo molto più grandi, abbiamo un'esperienza, è avvenuto quello che la Merkel non aveva capito bene, che è diventato un ingresso di massa. Purtroppo, è durato poco tempo, perché adesso abbiamo delle cifre di richieste di asilo politico in Germania assolutamente in linea con gli anni precedenti, saranno alla fine 150-200 mila, e che per la Germania non sono mai stati un problema. E che purtroppo però quando succedono queste cose poi riportano la questione è molto, e poi comunque capisco, per la sostenibilità della Germania, ma tutta l'Est Europa è saltata per aria su questo argomento qua, quindi il trauma resta, l'Europa è spaccata. E detto questo, faccio notare ai nostri ascoltatori che quello che è avvenuto ieri con l'assassinio dell'ambasciatore russo Karlov in Turchia da parte di un giovane radicalizzato ex poliziotto, attenzione, che quel giovane radicalizzato ex poliziotto non è affatto un gulenista, perché viene da ambienti dell'HPP, cioè del partito di Erdogan, delle frange più islamizzate, perché quello è un partito islamista, e quindi c'è un pezzo della Turchia ufficiale che di fronte al sostegno alla nuova alleanza con Putin di Erdogan non si ritrova. E proprio oggi si doveva tenere il vertice a tre, Russia sulla Siria. Quello è uno sviluppo potenzialmente esplosivo, perché, ripeto, stiamo parlando della Turchia ufficiale, ecco, da quella roba lì viene il poliziotto che ha ucciso l'ambasciatore. Comunque, e io in questi giorni ho pensato, stamattina appena sono arrivato, ho detto: penso a Putin quando deciderà di compiere la propria rappresaglia sulla Turchia. Vengono i brividi, in effetti, non credo che Putin sia una persona che lasci passare un'azione del genere così. In ogni caso, ringraziamo Udo Gump che è stato con noi, e ovviamente poi nel corso della giornata Radio 24 vi aggiorneremo, perché purtroppo c'è da aggiornare il numero delle vittime di quello che è successo a Berlino. Tra poco avremo invece Federico Pizzarotti, che è il sindaco di Parma, perché non dimentichiamo che c'è anche la politica caro Oscar, dimentichiamo che il decreto Piazza Natale è in arrivo, un bel decreto per non farvene capire miliardi. La portata, cari ascoltatori, dopo che vi hanno imbesuito per anni sul sistema del bancario più solo del mondo. Ma sì, 20 miliardi di debito pubblico. Tu di questo in più. Quanto sei disposto a pagare? Zero! Questa è la mia risposta. Perché pagasse chi mi ha ripetuto, i governatori della Banca d'Italia, i grandi quotidiani italiani, che ci hanno ripetuto che le banche italiane erano solidissime, capito? Questi spacciatori di palle, perdonate, allora adesso vi fanno il decretuccio sotto Natale, così non ve ne accorgete. Ma non è che ti chiedono se possono prendere i soldi? Ma allora aumentano il debito, tanto poi pagano i nostri nipoti, quelli che Poletti dice che è meglio che non tornino, forse per non pagare il debito, Poletti, quello che fai anche tu con questo bel governo, caro Poletti, sulle voci un po' per ridere, ma sotto Natale, ma dai, su, lo capiscono anche i bambini che hanno dato i calci alla lattina perché a Natale siano distratti. Ma sì, facciamo un decretuccio, c'è MPS, ma mica c'entra la politica con MPS, no? Potrete mai pensare, ma che banda, va bene, dai, tra poco siamo ancora qui, il clima è questo, c'è Andrea da Rimini, tra poco ripartiamo anche da lui come ascoltatore, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar, alle 8:40 minuti. C'è Andrea da Rimini che ci ha chiamato. Non so se sul tema Poletti, non lo so, ma vediamo un po'. Andrea. Sì, pronto? Sì, vi ho chiamato sul tema Poletti, perché il problema è che noi abbiamo distrutto quelli che sono i valori che portano i giovani a rimanere in Italia. Noi abbiamo distrutto il valore della competenza, abbiamo distrutto il valore del futuro. Da noi uno studia, tutti anche sul vostro giornale si parla, studiate ingegneria. I ragazzi studiano ingegneria, diventano ingegneri con grande fatica, superano l'esame di Stato, poi c'è una legge che dice che per dare la certificazione degli edifici energetica basta un titolo di grafico, perché se uno va a vedere, per dare la certificazione energetica di un condominio basta avere il titolo di un grafico e poi aver fatto un corso. Io ho un caro amico che è a capo, ha studiato come elementari, è italiano, e adesso è a capo di quello che è il Dipartimento sulla ricerca dell'antidroga negli Stati Uniti. Sì, vabbè, lui ce l'ha fatta, quindi lui ce l'ha fatta. Io ho chiesto, scusa, ma come hai fatto? E dice, ho fatto un concorso, avevi i titoli, avevo tutti i titoli per poter vincere il concorso e ho vinto il concorso. Vabbè, ma sì, ma caro Andrea, io quando sento parlare di meritocrazia in Italia viene da sorridere. come prima reazione. Alla seconda volta che uno me lo dice che ci crede, viene da imbracciare un fucile che non ho, e quindi non ho fortunatamente. Meglio comunque, che è meglio che tu non ce l'abbia, diciamo. Alla terza volta considero un caso clinico, patologico, insomma, perché insomma, la meritocrazia in Italia, io non l'ho mai vista, è difficile, mai vista, ci saranno anche dei casi, però il nostro Andrea da Rimini. Io, a proposito di meritocrazia, vi faccio riflettere su questo dato, che è un dato ufficiale, viene dalla società che studia, però a ogni forum della PA, i dati ufficiali della PA, quindi non pensate che sono io che invento, sto leggendo da un quotidiano e questo quotidiano riporta la sintesi di questo: retribuzione media annua nel settore pubblico in Italia 34.348 euro, retribuzione media annua nel settore privato 23.406, cioè c'è una differenza di 11.000 euro. In Francia sì, la retribuzione media annua lorda del settore pubblico è di 35.000 euro, ma quella del settore privato è di 33.574. Nel Regno Unito è il contrario, cioè sono i privati che guadagnano di più. Da noi la retribuzione media lorda annua, come sempre la media del pollo, è molto alta nel settore pubblico perché quella dei dirigenti è altissima, però è della bellezza di 11.000 euro più alta che nel privato. Secondo te, Alessandro, perché nel privato non c'è il merito e c'è tutto nel pubblico? Sappiamo che non è vero, ma questo è la dimostrazione del disincentivo al merito nel nostro paese. Poi, ecco, mi dicono giustamente, allora in radio siete tutti paraculati. No, ma adesso non è, ho detto tutti, nel senso che non esiste mai il merito e non voglio parlare di me, di Oscar, non stiamo parlando, ma per dire che è raro vedere appunto un giovane più bravo degli altri, ai titoli, no, dire, fa un fatto che ha ascoltato, e quindi fa carriera. L'economia è relazionale, no? Come si cercano posti, chiaro, gli amici, le conoscenti, i parenti, c'ho la figlia piacente, la mando così. L'amico dell'amico, eccetera. Ma qui c'è il sindaco di Parma, c'è Federico Pizzarotti. Buongiorno, sindaco. Buongiorno. Noi l'abbiamo chiamata in realtà per parlare, non so, stavamo parlando di Poletti, no? Di quello che ha detto, questa un po' una gaffa su questa cosa dei giovani all'estero, non so se l'ha sentita anche lei. Beh, lei è un sindaco giovane, uno che la carriera l'ha fatta, insomma, almeno. Ma insomma, allora, non è, la gioventù non è necessariamente un merito da sola, quindi sì, tornando alla meritocrazia. No, ma Alessandro Villa voleva dire, ha fatto carriera, viste le botte che ha preso, questo voleva dire. No. Ma quella è solo resistenza. Esatto. Tornando a quello che dicevate, effettivamente il tema del merito, ma soprattutto anche nel pubblico, e quindi ve lo dico come in prima persona, in questo caso come persona che ha studiato poi tutto il sistema meritocratico e le possibilità anche che il sistema pubblico ti dà, perché è anche molto vincolato, quindi certe volte fai molta fatica a riconoscere senza, come dire, violare tutti i temi sindacali, ma a chi fa veramente tanto, e tante volte la differenza non è così grande da chi fa molto meno, e quindi questo in genere ha anche un senso di insoddisfazione, perché dici, ma come, io faccio il doppio del lavoro e alla fine scoraggia i migliori, no? Esatto, un po' alla fine sì, perché però la discrezionalità nel sistema pubblico, come dicevate voi, sappiamo bene tante volte che fine ha fatto, e quindi alla fine si è sempre bloccati tra avere norme stringenti che però non ti permettono di premiare veramente chi fa bene, e avere la discrezionalità che però se uno è truffaldino poi la usa male. Il problema dell'Italia è questo in tante cose, sì, no? Leggi stringenti che non puoi giudicare, non puoi decidere, o libertà, e quindi però allora bisogna scegliere bene la classe dirigente, questo è il punto. Sindaco, ovviamente noi l'abbiamo chiamata perché un giudizio, un punto di vista suo, secondo noi è molto interessante su quello che sta succedendo anche a Roma nel Movimento 5 Stelle. Cioè, insomma, è un'intervista rivolta a lei come se lei fosse sulla riva di un fiume. No. Che no, vede nel passare senso che nella io corrente. Io sostengo, per esempio, alcuni giorni, ma c'è scritto anche sui giornali, che se probabilmente sono molte persone all'interno del Movimento, che lei conosce comunque molto bene, che non vedono l'ora forse che la Raggi incespichi o cadi, non vedono l'ora che si possa in qualche modo sostituire. La sua impressione è questa? La mia impressione è questa da tempo, ma più per la Raggi, più per tutto quello che si porterebbe dietro rispetto ad altre persone, magari altri big, perché ormai bisogna chiamarli un po' come così, i big e non i big, rispetto quindi all'appoggio che hanno dato la Raggi nel tempo, o quelli che non l'hanno dato dall'inizio per motivi territoriali, quindi tutti quelli che sono di Roma, come la Ruoco, la Lombardi, la Taverna, che avevano proprio un interesse diretto ad avere una loro visione del movimento romano, una loro visione di quello che è l'attivismo, populismo e di quello che doveva essere magari la giunta. Però con la novità di ieri, che è un interessante chiave di lettura visto qua dalla nostra Emilia, cioè la nomina di Pinuccia Montanari come assessore, perché in realtà è una vecchia conoscenza, non solo di Grillo, che ieri dicevano ah ma conosceva Grillo da tanti anni, in realtà conosceva tutti i vari influencer, chiamiamoli così un po' all'inglese, e emiliani che adesso fanno parte dello staff, come Incerti, come altri, che quindi è stata imposta dall'alto. No, non imposta. Beh, però è stata recuperata perché c'era bisogno di fare presto, trovare qualcuno, e secondo me a Roma non ci voleva andare oggettivamente nessuno, perché sai di essere sotto l'occhio, come dire, sotto l'occhio del ciclone, tutti guarderanno dove sbagli, quindi trovare qualcuno di veloce, disponibile, che magari non ha fatto altro, e hanno trovato questa. Però quando, e anche qui torniamo al tema della meritocrazia, che comunque è utile, quando una volta si diceva troveremo le migliori intelligenze, le migliori risorse, perché noi vogliamo dare spazio a tutti, poi alla fine si finisce, e lo vediamo anche in tanti altri municipi, se pensiamo di Roma, l'amico, il cugino, il fratello, perché, e non dico in tema familiaristico, ma in tema non riesco a trovare nessuno perché non ho il tempo, non mi creo la struttura, non mi creo una classe dirigente, come si diceva una volta, cioè persone competenti, disponibili a farlo nel momento in cui serve. Ma secondo lei quanto si gioca il Movimento 5 Stelle in questa vicenda romana? Quanto gioca dell'immagine pubblica, anche della possibilità di governare il paese? Allora non lo so, io se guardo qual è il mood tra persone su internet, su commenti, cose del genere, non che sia lo specchio fedele, ma diciamo dando un'occhiata, di fatto non mi sembra che si giochi tanto, perché comunque si tende a giustificare un po', perché ti dicono ho capito, ma se non ci sono loro non c'è nessun altro, quindi un po' il senso del senza il Movimento d'Italia spacciata diamogli fiducia, perché sennò, come dire, anche noi stessi ci sentiamo intristiti, senza vedere i reali limiti. Io sì, penso soprattutto a Roma, dove gli altri partiti hanno governato per anni. Sì, ma in generale, perché poi ti dicono come è complessa, Roma non è lo specchio delle cose, la gente a sua volta tante volte non si informa, quindi tende anche a non vedere i problemi magari che ci sono a Ragusa, piuttosto che in altre città del movimento, perché si tende a non volerlo vedere, perché informarsi tante volte costa, no, al di là delle frasi come prima di Poletti, che allora sono tutti i giornali, ma se uno deve andare a cercare delle notizie, un po' i giornalisti non ce le mettono perché non tirano, un po' uno non vuole leggerle perché è complesso, e quindi tante volte ci perdiamo una chiave di lettura veramente puntuale sulle cose che accadono. Ma altrettanto io dico, quindi secondo me non sarà così influente, l'unica cosa influente sarà eventualmente, perché se si va al voto, a mio avviso vince il Movimento 5 Stelle senza nessun dubbio, perché anche solo per dire proviamoli, che abbiamo provato ormai tutti in Italia, più o meno questo è il mood, e allora lì forse, cioè, d'improvviso forse si renderebbero conto che, come si diceva prima, le più grandi intelligenze non è detto che esattamente siano subito disponibili lì, e che per nominare, io dico sempre, 20-25 ministri piuttosto che tutti i sottosegretari, manca se ci sono voluti 5 mesi a nominare 8 assessori, ecco, pensiamo a 100 persone. Io però questo lo dico da 3 anni, il timore di arrivare impreparati, ecco, dovesse esserci un... Ma è sicuramente questo, perché se avete visto il primo punto del programma, perché dopo come dire, la vittoria del no referendum, hanno detto cominciamo a lavorare al programma, visto che vogliamo arrivare preparati, è un elenco, parlate di, insomma, del risparmio energetico, no? È un elenco di vorrei e di cose condivisibili, ma che poi, a cui manca, come direbbe Crozza, il foglio del come, perché sono capace anche io di dire sarebbe bello sul mondo pulito, poi bisogna anche declinarlo nelle leggi, nelle possibilità, nell'azione di governo, e questo un po' manca, e tante volte, però questo lo fanno tutti purtroppo come difetto, l'appeal di uno slogan è diventato sostitutivo delle capacità reali di poter fare le cose, e questo è un peccato. Però Pizzarotti, il punto è che se il fondamento del suo ragionamento coglie un aspetto che è un po' preoccupante, cioè se lei dice malgrado i fallimenti tante volte 5 Stelle restano, tanquam non essere, perché la gente ragiona, dice poverini sono appena arrivati, poverini gli altri sono peggio, io posso anche capire che funzioni così, nei sondaggi sembra funzionare esattamente come dice lei, come non ci sono state perdite di fronte alle espulsioni, la concezione di una forza politica in cui, insomma, ci sono aspetti, non è che gli altri partiti chissà cosa abbiano come democrazia e libertà interna, però nei Movimenti 5 Stelle ci sono degli aspetti su cui interrogarsi, diciamo, ecco, mi limito a dire questo. Però se l'aspetto resta nessuna reazione, non è un incentivo esattamente ad andare nella direzione che dice lei, cioè qualificare migliori programmi realistici eccetera, perché tanto si dice la gente capisce, sta con noi, ci darà tutto il tempo del caso, faremo tutti gli errori del caso, non lo so. Noi, io leggo la cronaca del Messaggero, il Messaggero è un po' puntuto, però dico, c'è scritto che Colomban, tutti gli altri giornali gli è stato raccontato non ho tempo per fare il vice sindaco, e invece la sintesi è la Raggi non si fida e non lo vuole, ha accettato un vice sindaco Bergamo che non è in grado di controllarmi. Io non sono neanche in grado, non sono in grado di dire se sia vero o meno, però se la gente non sanziona si continuerà a far così, e questo è un po' il mio timore. No, anche qua aggiungo una cosa invece, che secondo me l'aspetto di Colombani ieri leggendo, quindi potrebbe essere assolutamente riportato male, più del non voglio fare o non mi fido, l'aspetto su cui ho pensato è stata perché io non sono qua tutto il giorno visto che vengo da fuori. Allora, i miei assessori a Parma, una città sicuramente problematica quando siamo partiti, ma adesso sicuramente molto meno, comunque dedicano, ma tranquillamente 10 ore al giorno, no, se non 12, all'attività del comune, e sabato e la domenica c'è sempre qualcosa da fare, tranquilli. Uno che dice a Roma, all'assessorato alle partecipate, vado dove e vengo sarà, da Treviso, vado e vengo e alla fine quindi non sto qua sempre, ecco, io mi porrei il problema di quello, non tanto se voleva o non voleva fare vice sindaco, sì. Quindi anche qui, perché era stato trovato, se ve lo ricordate, all'ultimo del tipo ci serve qualcuno, se no non chiudiamo sta giunta e continuano a chiedercelo, ripeschiamo uno che era vicino dal movimento prima e lo vai a prendere a Treviso. Una curiosità, Pizzarotti, ma dovesse arrivare l'avviso di garanzia alla Raggi, lei dice valuterò, secondo lei dovrebbe dimettersi, secondo le regole che lei ha capito del 5 Stelle? Ma no, ma io questo l'ho sempre detto anche in passato, anche sulla Muraro, su tutto il tema Muraro, è una valutazione personale, cioè è una valutazione personale nella misura in cui tu sai di essere tranquillo, di non essere tranquillo e di sapere quindi a cosa va incontro nel momento in cui, quando continueranno eventualmente le indagini, troveranno qualcosa che non va. Allora meglio, come dire, non è un automatismo, ma non può esserlo, perché prima di tutto nessuno è infallibile a questo mondo, né chi fa le cose che può sbagliare in buona fede, perché poi dipende che reato ti contestano, se ti contestano associazione stampo mafioso, ecco, potremmo discuterne, no? Però come dire, abuso d'ufficio in Italia, dove l'interpretazione delle leggi tante volte scritte male non sono così chiare a detta di tutti, cioè uno potrebbe anche sbagliarsi in buona fede, sì, e va attestato il dolo, un vantaggio, cioè non è così semplice, quindi se ognuno si dovesse difendere diventerebbe anche una grandissima arma chiaro, di instabilità, perché io ti denuncio, apro un'inchiesta e te ti dimetti. E lei invece si candida? No? Oscar, gliela chiediamo tutte le volte quando... però Pizzarotti io non ho ancora capito, Pizzarotti si ricandida? Ma me lo chiedono tu, glielo chiederemo tutte le volte, tanto prima o poi lo dovrà rispondere. Esatto, ma no, prima o poi avrò una risposta, perché devo rispondere, perché io rispondo sempre volentieri, sì. Anche lì io penso che un grande errore della Raggi, ma che non nota nessuno, cioè non puoi secondo me permetterti dopo una confusione tale di fare un minuto e venti di conferenza stampa senza rispondere a delle risposte, cioè a delle domande dei giornalisti, che possono essere scomode, brutte, antipatiche, però fanno parte comunque dei ruoli, dei rispettivi ruoli, e quindi se tu sei tranquillo e hai delle risposte le dai. Anche lei però non ci ha risposto se si candida. No, stai dicendo non ce l'ho, questo lo dicevo solo per rispetto alle risposte, io le do volentieri, io dico quello che dico a tutti, che la verità era, io ci sto pensando, è evidente che ci sto pensando. Però era, non so, ieri è uscita la notizia del sindaco di Piacenza, Dosi, che non si ricandida, cioè fare il sindaco adesso, io sento parlando con tanti sindaci, tante volte fai fatica anche a trovare il candidato, quindi non è una decisione da prendere, alla leggera. Quando lo dico, ce lo fa sapere. Vedi qua, Oscar Cicco, siete faziosi, non parlate mai del sindaco di Milano, ne abbiamo parlato ieri per 20 minuti, voi siete distratti se noi siamo faziosi. Noi faziosi, ma voi essere distratti. Essere comprensivi, non arrabbiarsi. No. C'è sempre qualcuno che per antipatia del tema che stai toccando, ti dice che non stai toccando, tutto lì, lo conosci il meccanismo. Qui solo per le banche c'è lo Stato che ci pensa, gli altri giustamente non ce l'hanno lo Stato dietro. Sta roba in questi giorni mi sentirete battere e ribattere. Porta qua un miliardino così. Sono diventati già 19. Due urini. Come vedi, lo Stato ci mette 20 miliardini, ci mette. Vabbè, dai, ci troviamo domani, grazie.